Lei è stato con Scilipoti per quasi un anno, poi ha dichiarato oggi al Corriere se n'è andato perché stufato, cioè, mi sono stufato di essere sfruttato. Perché? Sì, esattamente. L'orario di lavoro non era dei più comodi, diciamo. La giornata era piena dall'alba al tramonto, con un rapporto interpersonale spesso un po' rigido e poco soddisfacente, oltre che quantitativamente mal Sembrerebbe retribuito. uno invece Scilipoti un po' iracondo, ma invece così, con una tendenza a simpatia tutta meridionale. Invece la sua testimonianza non è di questo segno. Beh, le attitudini personali dell'onorevole Scilipoti non sta a me Sì. giudicarle o sindacarle. Io cerco di attenermi per quello che posso, e ovviamente per quella che è la mia versione dei fatti, a quanto ho vissuto e a quanto credo di poter raccontare e Sì, e documentare. ci Il stava lavoro è stato raccontando appunto del lavoro che non era soddisfacente, era troppo e poco pagato. Sì, è un troppo e ovviamente relativo all'esasperazione dell'orario di lavoro, perché le richieste andavano poi a coprire un impegno di 14 ore al giorno, alcune volte anche 8, 9, 10 giorni alla settimana. Voglio essere un po' ironico, Sì. ma ecco, 7 su 7 sicuramente. E non è che a noi assistenti parlamentari faccia paura il lavoro, anzi, credo che il 99% dei Però certo, un collaboratori. conto è farlo portandosi a casa 5.000 euro netti più tutto il resto al mese, un conto è farlo portandosi a casa quanto al mese? Magari noi parliamo di tutt'altre Ecco, cifre. appunto, qua, quanto? Ribadisco che tutti gli assistenti parlamentari amano questo lavoro e sono lieti del rapporto di cordialità e di fiducia che si instaura con il deputato e con il senatore, ma le retribuzioni girano su tutt'altri numeri. La mia esperienza è ormai pubblica, ripresa dal Corriere questa mattina. La busta paga era all'incirca di 600 euro per un full time a quadruplo turno, dall'alba al tramonto, veramente da mattina a sera. E non è questo quello che è auspicabile per i Sì. lavoratori, ma credo per nessuna categoria lavorativa del nostro paese. È sotto la soglia di povertà quello che ci è stato propinato fino a questo momento, derivante anche dall'assenza di un inquadramento contrattuale, di una regolamentazione da parte delle istituzioni, che è quella alla quale ambiamo noi collaboratori in questo momento.